No? No, a Pattaya, mi chiamo. La sognare tutto, però, non mi ha sognato tutto il nostro discorso che la terza, di solo lo stai che sei. Non la sognare tutto. Ma pure la voglio. Ma ero il testo di mamma, lo vado, ci con i poi la vita. Il mamma, ciò, chi di una voglia, come la che a me ne ho solo lo scioglio. Mi ha capredato lì ciò, da stia a là. Mi ha capredato lì ciò. Mai più. C'è chi pare? E te lascio. C'è chi pare?